Le orecchie della lepre, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Un animal cornuto col corno offese un giorno il re leone, che per levar financo l'occasione sbandì tutte le bestie dal suo regno, can sulla fronte qualche aguzzo segno. E cervi e becchi e buoi, capre e capretti a far fagotto furono costretti ed a cercar paese più sicuro. Vedendo anche la lepre degli orecchi l'ombra allungarsi aguzza sopra il muro, temé che qualche inquisitor per poco, pigliandole per corna, non le facesse un maledetto gioco. «Addio, grillo!» esclamò. «Cambio dintorni per cagion, tu lo sai, di questi corni!» «Corni questi!» rispose il grillo astuto. «Per quel che vedo anch'io sono orecchie, amor mio, delle più belle che siano uscite dalla man di Dio!» Corni od orecchi, se ad alcuno il ruzzo o l'interesse torna di dire che son corna, n'avessi sulla fronte meno ancora di quelle che allo struzzo, saranno corna, corna da bisonte. Che giova il protestare? Ti si piglia e ti si porta dritta alla Bastiglia. Fine della favola. Le orecchie della lepre. Questa registrazione è di dominio pubblico.